1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora ci siamo, con calma, alle 7:22 minuti, anche oggi a leggere i giornali, cari ascoltatori, e vi ricordo che oggi parleremo di Afghanistan. Il ministro della difesa ha detto ci sono 300 milioni di euro pronti per rifinanziare la missione a settembre. Insomma, in questo momento in cui si cercano i soldi, ma davvero serve? Sono 300 milioni, per carità, ma che stiamo a fare lì in Afghanistan? Ecco, quando poi muore un nostro militare e le aule, per quando parla il ministro della difesa, sono semi deserte, si parla di Parlamento. Vabbè, andiamo a scoprire che cosa ci propongono i giornali. Intanto ne parleremo alle 8:15. Venerdì 14 giugno, i titoli sono tutti declinati sull'IVA, il governo verso la rinuncia, niente risorse, l'IVA aumenterà, così il Sole 24 ore, per il Corriere della Sera inevitabile l'aumento IVA, è la frase del ministro Zanonato. Repubblica, niente sconti su IVA e IMU, La Stampa, IVA e IMU, mancano i soldi, L'Unità, IVA e IMU, scontro PD-PDL, Il Messaggero, IMU e IVA, non ci sono risorse. Il Giornale, tornano i tassatori, Libero, arrivano i 10 giorni che cambieranno tutto, Consulta, Mediaset, sentenza Rubi, ineleggibilità del Cavaliere, Lodo, Mondadori, stretta fiscale. E questi temi, più IVA a luglio, il PDL insorge per il Secolo, mentre il Fatto Quotidiano per il secondo giorno torna su questa vicenda, Berlusconi che avrebbe chiesto agli 007 si può uccidere Gheddafi, il caso finisce al Copasir, questo è il titolo oggi del Fatto Quotidiano. Io voglio partire però dal racconto, al racconto di quello che è successo a Roma due giorni fa. Certo, si può derubricare, vabbè, ma è successo in un quartiere San Basilio dove c'è un clima di disagio maggiore rispetto al resto della città, ma davvero mi sconvolge l'uccisione che c'è stata a seguito di una lite, ma non proprio di una lite stradale, cioè sono andati a casa. Poi dopo si sono ritrovati, si sono cercati e una persona ha sparato in testa a un ragazzo colpevole a suo modo di avere dato un ceffone al figlio qualche mezz'ora prima. Insomma, c'è uno straordinario racconto drammatico di Goffredo Buccini, uno dei cronisti migliori che abbiamo in Italia, lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 23. Nella strada del delitto e dell'assalto all'ambulanza, voleva fare una strage, questa è l'accusa, ha sparato ancora ma la pistola si è inceppata. E allora racconta Buccini da via Tranfo, civico 131, San Basilio, casermoni popolari ater grigi, pieni di sbarre alle finestre, quasi tutti occupati abusivamente, bordi di periferia assassina nella Roma che rotola addosso al nuovo sindaco Marino. Abbassa il capoccione fino alle tempie, Manuel, che si avvicina al luogo dove è stato ucciso l'amico, nasconde occhi e lucciconi dietro lenti da sole enormi, dalle stanghette gialle, e dice «grande laziale», adagiando con delicatezza un mazzo di rose biancocelesti contro il muro. Dovevamo andare insieme a Sciarmi, io sono romanista, lui nell'altra curva, ma era come un fratello. Poi è arrivato quel matto, quello è l'assassino, Luciano Coppi, 59 anni, vigilante della città di Roma in malattia per una spalla lussata. Girava con la Glock di servizio pure da malato, ha sparato in testa Maurizio spegnendolo con un solo proiettile, lui e i suoi 31 anni. Perché? La storia è semplice, orrenda, ci sono due padri e due figli, un'idea fetida dell'onore coltivata in certi avamposti perduti della città che nascondiamo sotto il tappeto finché non riemergono a revolverate e coltellate. Dunque, alle 4 di mercoledì pomeriggio, Moreno Coppi, 18 anni appena compiuti, un paio di denunce per piccolo spaccio, se la prende con Francesco Alletto, il papà di Maurizio, che l'ha sfiorato con la macchina, pare, sarebbe un niente. Qua i pischelli fanno i coatti al primo taglio di barba per sentirsi maschi, invece si mettono in mezzo gli amici, tocca fare i più duri, partono insulti, a vecchio, che sei cieco, vola un ceffone, Francesco fila via umiliato, ma potrebbe finire lì, invece le voci corrono. in questo quadrilatero dell'Ater, che è l'assurda periferia orientale della Borgata, 60.000 anime, 180 spacciatori agli arresti domiciliari contro appena 16 carabinieri. Insomma, lo sfondo è questo, e per questa lite come altre 100. Ed ecco che dunque, mercoledì pomeriggio alle 5, sulla scena spunta Maurizio, il figlio di Francesco, e fronteggia Moreno, il figlio di Luciano. Sei tu che hai imbruttito mio padre? Da qui in poi è tutto da stabilire e deciderà il PM. Di certo Coppi, padre, è reo confesso. La Borgata lo voleva linciare, in 50 hanno assalito carabinieri, polizia, bariglieri dell'ambulanza, arrivata tardi accusano, il 118 nega, perché qui ci si fa giustizia da soli, ste cose non si regolano con gli sbirri. Insomma, è questo lo spaccato di un racconto, ma tutti i giornali, anche Libero fa una pagina, erano già a casa, sono scesi per ammazzarsi, oppure La Stampa, bande, aggressioni, case occupate, è davvero l'inferno di Roma. Il viaggio a San Basilio, il quartiere dove si muore per una lite stradale. Beh, vi invito alla lettura di questo di Goffredo Buccini sulla stampa, sul Corriere della Sera, perché è davvero una lettura molto molto forte, intensa. Che bisogna dire poi della vicenda che ha tenuto banco? Ieri noi l'abbiamo, io l'ho twittata alle 7 del mattino, perché questa vicenda circolava da l'altro ieri sera, poi è deflagrata attorno all'una, no? Di questi insulti se ne sono accorti anche i grandi mezzi di comunicazione. Della leghista o ex leghista già espulsa dalla Lega, Dolores Valandro, quella che in pratica non è che ha augurato, ma insomma ha detto, in quello che lei ha definito uno sfogo di rabbia, mai nessuno che stupri la Chienghe, il ministro Chienghe, perché nessuno la stupra, così ha scritto su Facebook, così prova il senso di stare dalla parte della vittima di questo efferato reato. Davvero una cosa incredibile, che chiunque possa augurare a una donna di essere stuprata, o comunque di dire questa frase, poi a maggior ragione un'altra donna, una cosa veramente odiosa. Vabbè, è stata espulsa subito dalla Lega. Il ministro Chienghe fa un'intervista a Repubblica, intervistata da Vladimiro Polchi, trovate l'intervista a pagina 15. Dice: c'è un'Italia impreparata al cambiamento, ma non permetto a nessuno di togliermi il sorriso. Potevo aspettarmi delle critiche, ma una tale violenza non la potevo neppure immaginare. Inizia così l'intervista del ministro. Quale paese emerge da questa violenza? Ogni paese ha la sua storia, risponde la Chienghe. L'Italia ha le sue difficoltà specifiche, dovute in parte a una scarsa conoscenza del fenomeno migratorio, in parte al fatto che tale fenomeno è stato per tanti anni raccontato male agli italiani. Diciamo che queste reazioni denunciano senz'altro una certa impreparazione. Non voglio essere complice, certo, non voglio, voglio allontanare ogni violenza da me, non voglio rispondere sulla stessa linea. Questo linguaggio non mi appartiene. Si è sentita sola di fronte agli insulti, risponde il ministro. Questi sono temi trasversali che non hanno appartenenza politica, toccano i diritti di tutti noi. In questi giorni ho avuto molte risposte del territorio che non mi hanno fatto sentire sola. Insomma, risponde: clima di violenza inimmaginabile, non mi sento sola, ma non risponderò a tono. È stata già espulsa anche la Lega, scusate, la Padania, il quotidiano della Lega mette questa notizia all'interno. Frase contro la ministra Chienghe, frase shock, subito espulsa consigliera leghista. Vabbè, i 10 minuti o il giorno di celebrità woroliana le ha ottenuti anche Dolores Valandro, di cui domani nessuno ricorderà neppure il nome. Voglio subito, siccome mi è arrivato un messaggio, per un'informazione corretta dovrebbe ricordare che in aula i grillini erano al completo. Io non ne posso più di questo atteggiamento sospettoso. Cara ascoltatrice o caro ascoltatore, l'abbiamo detto ieri, ci sarà anche un esponente del Movimento 5 Stelle alle 8:15 a parlare di questa cosa, per cui basta pensare che qua non si faccia un'informazione corretta. Se pensa che non facciamo un'informazione corretta, giri canale, spenga la radio e la smetta di rompere le palle. Ecco, questo è il messaggio molto chiaro. Allora, l'IVA aumenta, cari italiani, rassegnatevi, perché questo è almeno quello che si evince a 16 giorni da questa data. Come raccontano tutti i giornali, IVA, niente risorse, si va verso l'aumento. Questo ieri ha detto il ministro Zanonato. Era 16 giorni senza, fra 16 giorni senza che il governo faccia nulla, visto che è stato un provvedimento già deciso dal presidente esecutivo, noi avremo l'IVA aumentata di un punto dal 21 al 22%, così racconta Marco Mobili nell'articolo di pagina 3 del Sole 24 Ore. era zanonato ieri a Porta, il ministro dello sviluppo economico, contestato anche dai commercianti dall'assemblea di Confcommercio due giorni fa, ha ribadito che insomma le cifre sono quelle, senza, certo c'è questo senza che non si faccia nulla che può alimentare ancora un po' di speranza. Per la verità il ministro dell'economia Saccomanni già nel pomeriggio in audizione aveva detto che con l'IMU e l'IVA combinato disposto servono 8 miliardi tagli non rinvenibili, ha utilizzato questa terminologia il ministro dell'economia, che comunque già ieri pomeriggio invitava la cautela lasciando aperta la strada, che cosa? Al differimento dell'aumento IVA in agenda il 1 luglio, perché si sta valutando se si riesce almeno a rinviarlo di 3 mesi. Cari italiani, accontentatevi, così almeno di 3 mesi, potrebbe essere questo lo spettro delle possibilità. Ovviamente che cosa c'è? Politicamente, come racconta Repubblica in un retroscena pagina 3, la delusione del PD, PDL, tutti contro il ministro. Berlusconi avrebbe detto questo: noi dobbiamo insistere sull'IVA, sull'IMU, sui giovani, ma non sarà facile perché questo è un governo di pavidi, così l'avrebbe definito Berlusconi, governo dei pavidi, infatti è il titolo di pagina 3 nell'articolo di Roberto Mania. I democratici dicono anche siamo tornati a Monti, quindi anche all'interno del Partito Democratico c'è chi dice niente, si dice, ma poi la conclusione è questa. Siamo tornati a Monti e le tasse vanno messe. C'è anche Brunetta, capogruppo del PDL alla Camera, spalleggiato da Schifani, racconta Repubblica, è andato giù duro e dice non possiamo sopportare un tale stato confusionale in un momento delicato per l'economia del nostro paese. L'unico che può riportare ordine è il presidente del Consiglio Letta, ne va della dignità dell'intero esecutivo. Sta di fatto che i titoli sono tutti declinati al pessimismo, l'aumento IVA è inevitabile, anche pagina 3 della Stampa con Roberto Giovannini, ma si pensa a un rinvio, secondo la Stampa, la possibilità, secondo Saccomanni, di posticiparlo addirittura di 6 mesi, non di 3 mesi, ma forse anche di 6. Certo, invece, per quel che riguarda il piano sul lavoro, un altro tema molto molto sentito, il piano Letta sul lavoro, a pagina 2 del Sole 24 Ore non c'è una notizia molto molto bella. Eccola qui, uno apre pagina 2, rinvio sul lavoro. Ma come rinvio? Ne hanno parlato così tanto, rinvio, ebbene sì, Eugenio Bruno e Carmine Fotina. Pausa di riflessione sulle norme per rilanciare l'occupazione. Inizia così l'articolo. Dopo l'incontro tra il ministro Giovannini e i sindacati, il governo cambia direzione e preferisce un ulteriore confronto con le parti sociali prima del varo delle misure sul lavoro, che nelle intenzioni del premier Letta dovranno comunque arrivare rapidamente e in ogni caso prima del vertice europeo del 28 giugno. Per carità, sono 14 giorni, se il rinvio è di qualche giorno va bene, noi siamo, d'altronde sono 20 anni, 30 anni che attendiamo, siamo disposti a concedere ancora, cosa volete che siano 13 giorni, 12 giorni di rinvio, ma la sensazione è sempre quella del rinvio. Intanto, come certifica il Corriere della Sera con Isidoro, ho trovato a pagina 5 una fotografia impietosa sull'impoverimento dei professionisti, soprattutto i giovani, per i giovani redditi dimezzati. Non tutti i professionisti si sono ridotti in povertà, per carità, ma il mondo professionale assiste a una polarizzazione sempre più accentuata. Da una parte ci sono i più anziani, cioè gli over 40, che hanno potuto vivere situazioni economiche e sociali più convenienti, dall'altra i giovani, gli under 40. I dati forniti dall'Associazione degli Enti Previdenziali Privati parlano chiaro: il reddito medio dei professionisti under 40 risulta in media inferiore del 48,4% rispetto al reddito degli over 40. Tra le donne di generazione diversa la differenza percentuale, tra le donne di generazione diversa la differenza percentuale sale fino al 55,8%. Avete capito? Tra i professionisti una spaccatura netta nei redditi tra gli over 40 e gli under 40. Certo, l'obiezione è fisiologico che i giovani guadagnino meno di chi ha 30 o 40 anni di professione alle spalle. Questo è vero, ci deve essere un gap. Uno che ha 50 anni ha una maturità professionale che uno che ne ha 30 non ha, ma questo gap è troppo ampio, sicuramente è troppo troppo ampio, è anche la dimostrazione che qualcosa non va. In ogni caso questa è la spaccatura per quel che riguarda i giovani. È una situazione difficile, tanto che Libero titola sono i 10 giorni decisivi per Silvio e Letta. Silvio, cioè Berlusconi, ha problemi giudiziari. Il 19 giugno la consulta sul caso Mediaset, che potrebbe annullare addirittura la condanna a 4 anni in appello, oppure potrebbe far procedere la Cassazione. Poi il 24 la sentenza Ruby. Poi ci sono le scelte sull'Europa, dell'Europa sulla crescita 26-27, il 1 luglio l'IVA. Insomma, questi 20 giorni, più che 10, sono giorni decisivi. Ah, l'hanno rimesso l'aggettivo decisivi, decisivi per Libero, per il futuro. Intanto che succede? Arriva il riccometro flessibile, come titola Il Sole 24 Ore a pagina 13, vale a dire il tentativo di sbugiardare i furbetti dell'ISEE, il nuovo riccometro, l'indicatore della situazione economica con il nuovo ISEE equivalente delle famiglie che poi hanno accedono alle prestazioni sociali come asili nido, assegni di maternità, disabilità, bollette della luce, bonus sui canoni telefonici. C'è il nuovo riccometro per cercare di stanare i furbettoni dell'ISEE. E poi Libero invece mette questa notizia che, come dire, tasse, rispunta quella che viene ribattezzata da Libero la tassa sul morto. Aria di stangatina sulla casa e spunta la tassa sul morto. Bernardo Fedeli racconta di un tentativo, i servizi rapporti fiscali, servizi studi di strutture economiche e finanziarie, i dirigenti della Banca Centrale, resta, ha detto, decisamente inferiore rispetto agli altri paesi europei il peso del prelievo sulle successioni e donazioni. Ecco, questa frase certificata di appena 2 righe di una relazione monumentale, strabordante di dati e confronti e riferimenti e analisi fanno capire che c'è la possibilità, secondo Libero, che si aumentino queste tasse, la tassa sul morto, su donazioni e successioni. In tutto questo i partiti che fanno? Beh, intanto attendono sulle riforme. Napolitano ieri ha fatto un nuovo appello: basta calcoli meschini, agite in fretta sulle riforme, ne va della credibilità del paese, il Parlamento faccia con lungimiranza la sua decisiva parte. Eccolo lì, anche lì, decisiva anche per Napolitano. E infatti alle riforme hanno dato il carattere di urgenza, ma qualcuno ha protestato. Il PDL ha detto no, l'urgenza no, Schifani ha detto l'urgenza sulle riforme, la votiamo per senso di responsabilità, ma bisognerebbe riflettere. Rosi Bindi ha detto al ministro Quagliariello non troppa fretta, no, con calma, meditiamo. Ci sono i 35 saggi, 7 scribi, il comitato dei 40 e udite, cari ascoltatori, dall'altro ieri me l'ero persa, una cosa che grida veramente vendetta, quasi al cospetto di Dio. Hanno nominato un'altra persona. È un magistrato presente alla Corte d'Appello di Bari, è stato nominato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato per mantenere il collegamento tra il comitato dei saggi e la Camera, il collegamento, una persona deputata a questo, il presidente della Corte d'Appello di Bari. A quanti siamo come numero per fare queste riforme? Non lo so. Poi, visto che inizia il referendum via web, il più grande mai visto in Europa su questo, tra 10 giorni, che ci coinvolgerà tutti, insomma siamo 60 milioni di non più CT della Nazionale di Calcio, ma 60 milioni di riformatori. Anche tu, Peter Bescapè, sei un riformatore. I partiti invece, il Partito Democratico, c'è sempre una giornata in cui ci si accapiglia su Renzi, beh, la intervista più intelligente la fa Beatrice Borromeo, come spesso le capita, sul Fatto Quotidiano, intervista Flavio Briatore, che dice, dopo la frase ieri di Bersani, no, che sul Corriere avrebbe detto sì, Renzi vuol fare il segretario, che fa? Fa iscrivere Briatore? Eccolo lì, Briatore, mi dà fastidio, Bersani e gli altri sono degli sfigati nel senso letterale del termine, gente che manteniamo da quando sono nati, pensano solo a salvaguardare il loro stipendio da 15.000 euro, mentre Renzi è uno normale, e detto di un politico questo è già un super complimento, ho già detto che lo voterei. Sa che le dico, risponde a Beatrice Borromeo, anche a costo di iscrivermi al PD, così faccio un favore a Bersani. Renzi è uno open-minded che ascolta e recepisce. Quando siamo andati al lunch insieme, non abbiamo parlato solo di campi da golf, ma di come incentivare il turismo, che è l'unica risorsa rimasta. L'anno scorso ho portato Leonardo DiCaprio a Pompei. Volevo fargli fare un giro in elicottero, ma mi hanno detto di no per via delle vibrazioni. Poi siamo andati a piedi e c'erano i cani che facevano la pipì nei siti archeologici, non ci arrivano. Così Briatore. Renzi è l'unica speranza vera. Non facciamo chiacchiere, siamo uomini del fare, tutti e due. Io ho sempre ottenuto risultati, ho vinto 7 mondiali, do lavoro a un sacco di gente e Renzi lo vedo come il futuro leader del paese, a patto che cambi la Costituzione, che si cambi la Costituzione. Insomma, questo Briatore sul Fatto Quotidiano. A proposito di Renzi, però, c'è una notizia, attenzione, che da solo Repubblica, me la sono persa. Ah no, eccola qua. È messa a pagina 12 in taglio basso, ma questa è una notizia che si è confermata. Escort negli uffici del comune di Firenze. È scandalo. Ma è una vicenda incredibile, messa a pagina 12 in taglio basso. Un'inchiesta della Procura di Firenze e della Polizia Postale su un vasto giro di escort d'alto bordo lambisce i palazzi del potere locale. Una prostituta straniera, la più richiesta da imprenditori, commercianti e professionisti, è stata intercettata mentre raccontava quel che era accaduto in un ufficio del comune di Firenze, cioè un incontro ad alta intensità con un funzionario dell'ufficio mobilità, collaboratore dell'assessore Matteo. E c'è l'intercettazione ambientale, tutto, insomma, praticamente stavano facendo quello che stavano facendo quando è entrata una donna delle pulizie e le è caduto il secchio d'acqua dallo sconvolgimento, e da qui sarebbe partita l'idea di un'inchiesta della procura per escort negli uffici comunali del comune di Firenze. E che è sta notizia in taglio basso a pagina 12 di Repubblica? Seguiranno sviluppi? Chi lo sa? Intanto Berlusconi pensa a rifare il partito. Come? Via il PDL arriva una holding con 20 filiali, una per ogni regione, gestite da un manager. E lui pensa ai Barilla, i Colaninno Senior, gli Averna, i Benetton, Marchini, che ha già fatto sapere però non ho interesse a entrare in politica, così non ho interesse a farlo, mentre Barilla ha già fatto cadere l'invito, non ho interesse a entrare in politica. Insomma, questo vorrebbe fare Silvio Berlusconi da tutti i giornali. C'è nel Movimento 5 Stelle un altro che va allo scoperto insieme alla senatrice Gambaro, è il senatore Lorenzo Battista, intervistato da Alessandro Trocino, pagina 13 del Corriere, dice: Beppe oscura il nostro lavoro, se fanno fuori la Gambaro me ne vado anch'io. Ma voglio lasciare spazio per chiudere a un'intervista molto intensa che Carlo Verdelli fa su Repubblica, una di quelle interviste che vi invito davvero a leggere. Parla Luigi Manconi, ex senatore, e per la prima volta racconta un suo dramma personale che vive da 7 anni, vale a dire: sono quasi cieco, sono diventato cieco alla mia età, per la prima volta ne parlo e dico: io per esempio non so che faccia abbia Obama. Nel 2008, quando venne eletto, non ero già più in grado di memorizzarne il volto, direi che ha una testa ovaloide, è così? Ecco, Luigi Manconi, io senatore diventato cieco, non so che faccia abbia Obama, ma provo a ridere del mio handicap. È una bella pagina, una bella intervista, un'intera pagina, pagina 21, racconta: già dal 2005 sapevo del glaucoma, che si sommava una forte miopia, ma ho una totale, addirittura suicida, ignoranza del mio corpo, non riesco a collocare con precisione il momento del non ritorno, so però che è irreversibile. Certo, nel novembre 2007 ero sottosegretario alla giustizia e alla Camera dovevo dare il parere del governo su emendamenti e mozioni. Da un po' mi raccorto che la situazione del mio visus si stava aggravando, così avvisai il presidente di turno, Giorgia Meloni, che avrei potuto avere difficoltà. Cominciai, ma da lì a poco mi accorsi di non riuscire a leggere neanche mezza riga. Mi venne in soccorso un funzionario suggerendomi le parole, ma io faticavo a ripeterlo, l'opposizione prese a rumoreggiare. Quando la protesta si fece più vivace mi rivolsi all'aula con queste parole: per un problema di salute non sono più in grado di proseguire. Da quel momento non sono stato più capace di leggere un testo, né gli appunti per i miei interventi, che curavo maniacalmente, e decifra malapena qualche riga scritta a mano in grandi caratteri. Insomma, inizia così il racconto di Luigi Manconi, diventato diventato ipovedente, dice: la mia vera privazione, leggere soprattutto tanti libri. Trovate questo racconto molto intenso su Repubblica.